più di fila, un gruppo di amici, voi due quasi felici, lui innamorato, lei confusa, lui disperato, lei che non lo aiuta. Parlate di fonetica, forse parlate di aritmetiche, forse lei ti farà soffrire, forse per qualche secondo ti farà morire. E poi questo giorno proverà a spogliarla, a togliergli la maglia, la maglia, la maglia, ma lei non se la sentirà e tornerete a parlare di Kant. Di chi? Di Kant. Ah, ok. Lei pensa solo alla scuola, anche lui pensa ad una cosa sola. Lui è alienato, lei è sempre fretta, lui un po' sbagliato, invece lei è perfetta. Perfetta, e perfettamente non lo amerà mai. Poi lei ne troverà un altro, molto più bello, molto più stupido, molto più alto, più affascinante, più interessante, infatti, no? Lui invece sentirà morire dentro, nell'orgoglio, nel fegato, nel cuore e un po' nell'anima. Ma su, dai, non possiamo stare assieme. Per me sei come un fratello. Ma poi se ci lasciamo soffro troppo, dai. Per me sei come un fratello. E guarda, sono sicura. Sono sicura che troverai la ragazza giusta per te. Per te. Per me. Sì. La la la la la la la.